Convincimi. Dimmi ogni minimo dettaglio. Sai, quando facevo parte di quel quartetto vocale a Skokie... Dove hai questa gente qui? Quello che dobbiamo fare è pensare, ripensare a tutto. Il mio cliente le è molto grato. Briggs Marley. Non è così. Voglio solo sentire la tua versione. È tutto lì dentro. E sto dicendo la verità, lo giuro. Un tizio della California si chiama... Questo Redford. Regalo dal signor Sose. Dimmi, Verbal. Che mi dici di lei? Il signor Redfoot non sapeva niente. Uno molto grasso. Come una balena era grasso. C'era un avvocato, Kobayashi. Quando lo raccoglievo in Guatemala, lo facevamo fresco il caffè. So che pensavi che fosse un tipo in gamba. Io so che era in gamba. Dimmi ogni minimo dettaglio. Una strana cosa. Come si fa a sparare al diavolo? Quel tizio è protetto molto in alto dal principe delle terre. Allora che dici, venditore ambulante? Qual è la tua storia? C'era un avvocato. Quale avvocato, Verba? Io sono l'avvocato Kobayashi. Kobayashi. Dimmi ogni minimo. Io lavoro per casa sua. Convinci. Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare. La beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato convincere il mondo che lui non esiste.